Buonasera. Che bada. Tutta. Non sento nessuno stasera. Ma c'è tutto il letargo. Infatti. Fate tutti in letargo solo, per carità. Invece avete. Così com'è la popolazione, fra? E come abbiamo detto stamattina, fra. Bisogna tenere la potenza un po' bassa per l'ingresso all'amplificatore, se no hai visto, me l'hai regolata tu a me. Mattino gliel'ho regolata stamattina, non riesci a abbassare appena appena di l'ingresso. Così. Vabbè, finisci. Ok. Com'è adesso qua? Adesso va bene, vedi, lasciala così lì l'ingresso sull'amplificatore, fra. Ehi, capo. Sì, no, sto usando il, come si chiama, BB131. Con il president. Capo, gli ho abbassato l'ingresso di, l'ingresso e mi sto dando, prima quello non è giusto, 120. No, non ti affidare lo strumento. Ma più di 100 gli sta dando comunque. Magari 110, 105, 110, perché sei oltre il 9. Ehi, capo. Voglia. Già funziona bene questo. Questo da quando l'ho comprato l'ho usato un paio di volte e basta. Ehi, tagli tu raggi durante l'armadio, BV131, il BV2002. Transistorizzato a 220. Sei potenza. C'ho il RM Italy, lo stesso transistorizzato, una bestia, tre ventole c'ha, mi c'ha anche il Walter, c'ho il lineare, c'ho il 747, poi c'ho l'AB300, sempre la CTE, e teoria, ci muovo ad attaccarle tutti uno dei tuoi baracchini. Sì, vabbè, uno buono. Sempre buono averlo sempre attaccato per qualche emergenza. Guarda, io è piccolino, manco si vede, manco lo vedi, non sai manco lo vedi perché è dietro, proprio nascosto tra gli alimentatori, capito? C'è il pulsantino solo che ho lasciato libero per accenderlo e spegnerlo. C'è il 747 collegato a quell'Elbex e basta. Giusto per avere qualcosa in più quando serve, se no c'ha più di 10 watt, c'ha 15 watt con la radio, quindi ha voglia a farsi sentire. Va bene, KK, non mi sto andando con 4.30, così lo facciamo andare, è un paio di giorni che non lo uso. Ehi, capo, sta andando bene, perfetto quello lì. Sì, non sapevo che questo con Ritti a mezzogiorno si affitta e usciva da, ma andava la gente pure tre quattro. No, fra, presente così, l'ho avuto anch'io, sul più lo devi tenere. Perché sul più non ti smorza la modulazione, ricevi meglio, esci benissimo. Ritta, come ti sentivo sta saturazione, non capivo cos'era, poi come ha spostato il Ritte, te l'ha messo sul più, perfetto. Sì. In effetti è così. Che aspetta? Ma te l'immagini. E vabbè, sappiamo un'altra cosa. Magari io l'ho toccato e si è girato e non me ne sono neanche accorto. Ma giusto, ma fatta, da una sola che faccia c'è il radio. Sembra così, fa, ma a volte siamo noi che li tocchiamo, quindi è così. Io ho una modifica, è modificato quell'erba, cioè i canali sotto e i canali sopra. La modifica dove c'è scritto NB, no? NB off, NB on, ed era in on, il suo NB, ma gli dico, ma che è in on? Io non ne ho di rumori, eccetera, perché è un filtrino che hanno eliminato. Gli ambasciato e sono riuscito a puntare il gasino, ho detto, ma è successo in occhi. E ho scoperto che quella è una modifica che hanno fatto, capito? Le cose si scoprono così, si scoprono. Sì. Il coso mi sta segnando, 120 mi sta segnando. Quello del lineare. modulati 100, quasi 130. Oh, vabbè, lì devi procurare, devi attaccarlo al wattimetro esterno a vedere. Non è male, anche il mio c'è poca differenza, anche il mio segna intorno ai 110-120 e sono un po' meno, dai, 105-108 modulati, quindi se ti sta segnando 120 magari saranno 115, però se la valvola è buona, quella è una valvola che dà 120 watt. Scappa, no, la valvola è buona perché quello lì che me l'ha dato l'aveva sostituita da poco, l'aveva sostituita e non l'aveva, l'ha usata solo a provare, mi ha detto, e quindi se è vero, però visto che già funziona vuol dire che non è esaurita. No, no, passi da 7 a 9, 5 vuol dire non è esaurita, vuol dire che funziona, ha voglia che funziona, va bene, va bene. Oh yeah, mi dicevo che tipo lo fa, è un freddo pure, un vento, un freddo, gli ho detto ma gli dicevo anche, però c'è manco il radio, lì non c'ho niente, ma io me ne sto andando, però sono tornati dopo, ma io mi sono andato. Ecco, te la devi mettere una, almeno baratino, te la devi mettere, devi, una volta installato poi rimani, e va bene. Che quando te ne vai del tutto lì poi è un casino, eh? No, vabbè, quando me va del tutto già è stabilito che l'antenna 27 la metto, da qualche parte la metto. È un po' difficile da, devo fare un sistema, un piantone da qualche parte, però la metto, capito? Ma antenne grosse come ciò qua non le metto, non mi interessa. Metterò un dipolo, non so, una multiballa, qualcosa. Organizzo diversamente, dai, fra, tanto io lo sapete. Come ho sempre detto, come ho detto anche stamattina, io sono l'animatore nella carta, mi piace avere tutto per seguire, per fare. Se poi qualcuno deve fare qualche prova, spostati lì, ci vado. Molto volentieri, per carità, ma un'attività vera e propria io non la faccio, quindi avere queste antenne in mezzo alle balle, no. Non è che sia bello, anche perché qua è un sistema di parificazione fatto da Fabrizio a regola d'arte, non si scherza. Lì non c'è questione di parificazione, lì devi traliccio, mettere traliccio. Io non me la sento di buttare quattrini perché ci vogliono un sacco di soldi per fare quei lavori, per poi non avere risultati, nel senso che non lo usi, capito? Perciò, nada de nada. Ehi, capo. Sì, vabbè, lì non c'è quel palo alto dove ci sono le antenne, ce la metti in punta. Ma dove, in campagna? No, non ho fatto mai vista, no. Non ce n'è pali, c'è il tetto, c'è l'antenna centralizzata. Campagna poi non puoi fare una cosa del genere, campagna devi fare il traliccio a terra, scavo, plinto. E tutte cose, capito? Io ci ho posto, è una favola perché c'è una dipendenza a parte che è collegata lì praticamente alla piscina dove c'è la doccia, il bagno, una stanzettina per cambiarti, capito? Quindi posso anche farmela lì dalla sala radio. E viene anche un bellissimo lavoro perché è proprio indipendente. Però bisogna scavare, fare plinto, traliccio, no? Proprio davanti alla piscina, no? Ah, mi figliola, mi buon invoco, a me è il radio. No, non volevo dire quello. Lì non ci sono le antenne della TV, quelle antenne Rai. Ah, se ci vogliono 200 metri di ricavo, sarò più vicino, magari mi sarei agganciato, ma no, che danni, bra, fattorei una scarica anche lì, dico in aria, io tutta la gaggia. E che sei alta, tanto buona matta, ma la matta, ma non mi mai. Tanto sei alta, minchia, ma alta però, io ho fatto anche la foto da sotto, dal giardino mio. Si vede benissimo, siamo proprio in linea d'aria, sarà 100 metri, non di più. Ah, fra, chi fa un sacco di gasino, è bello stare sereno, tranquillo, dormire la notte, il mio vento che vede, e cacci una frutta. Ogni volta, il primo periodo, adesso oramai mi sono abituato, perché ho visto che il vento ne ha preso tanto, ma tanto, tanto, e anche molto, molto forte, che ha fatto un sacco di danni. Manco ballarti camera, perché? Perché è un sistema basso, altezza c'è, non c'è bisogno, ma quando tu parti da terra, e devi fare un traliccio di 25 metri, sono gazzi, Non so, purtroppo è così, credo sia molto alto quello, sono alti, e vabbè, io ci avrei provato. No, non mi convinci, Ofra, non ce la ci vuole fare un sistema leggero, con soldi, tanto ci vuole uno che ti faccia il lavoro del carrello, tutto il sistema, anche se lo fai scattolato. Sono mia così, che merda. Sono un lavoraccio, l'ho visti fare, guarda chi ha fatto lavori qua a Sassari, sono professionisti, non sono i cigabasci. Non so ci fitto, vuoi tutto di subito i biasi, però sono persone che sanno il fatto suo, ci vuole un sacco di lavoro, precisione e spese, chiamare lo scavatore, fare lo scavo, gittà, cimento, di tutto più, ha fatto bene, e poi il traliccio costa un sacco di soldi, traliccio da 20 metri fra 1 e 2.000 euro a comparare una sera pubblica, io sul tetto ho quasi 3.000 euro, rifferrafa, senza contare cavi, balle e poi va. E per moto, però è così, la realtà è quella, è bello avere tutto, ma se poi non le usi sono soldi buttati fra, quindi a parte il fatto che tra mia figlia non lo concederà mai, perché rimane in mezzo ai piedi ed è bruttissimo l'avere, per dopo lo devo fare io, quindi l'unica cosa, come ho messo la 300, che poi la tolgo, metterò la 7000 lì dietro praticamente la casa dove c'è la veranda, non si vede niente, lì due staffi a muro e ti bongo burro la mantova, capito? Un paio da 6 metri e va bene, ma quella è fra, è roba che non si scherza, meglio rimetterla a posto dov'era. Ehi, Rodrigo, quello costa, è un casino, tu pedinavi voi, è solo per quello, e un Nubi un bel 14, e armacia del Nubi, e purtroppo non so tutti i verrescini a fare una cosa del genere, c'è chi ci riesce e chi no, chi ha di più, chi ha di meno, ed è un casino. No, io non sono indietro a nessuno sicuramente, mia antenne sono antenne buone che mi ha fatto comprare Marco, che è abbastanza esperto in materia, e sono antenne buonissime, sono proprio PKW, però ti ripeto, avevo fatto in quel periodo un sacco di sacrifici per poterle comprare, proprio per non prendere soldi da casa, per non chiedere niente a nessuno, capito? Arrivo a Vagliato, tutti i figli vendi 15 ore al giorno per comprare, per mettermi al passo, e poi insomma, pensavo la passione c'era, continuasse, ma no, una volta ti manca la passione, l'abitudine, la voglia, no? Bello è perché io quando metto ad ascoltare, per dire in 20 metri, che c'è un segnalino basso, perché c'ho anche l'altro, il dipolo, che è 15, 20 e 40, sempre che mi ha fatto Marco. Però quando c'è segnalini bassi, che è commuto, io c'ho il commutatore elettronico della metro, anche quello è costato 250 euro, io c'ho un unico cavo di discesa comandato laggiù elettronicamente, cioè roba professionale, no? Commutatore del tagino, tutti i cavi sono collegati sopra ad un commutatore a relè comandato praticamente laggiù a 12 volts, tutto elettronico a 5 bande, quindi lavoro fatto a regola d'arte, anche quello ha fatto Fabrizio con Maurizio, perché bisogna fili da giardà, venne un bel, ma un bel, e poi devi sapere quello che stai facendo, e se sbagli relè, magari metti l'antenna in corto. Capito? Perciò un grande sacrificio, vabbè, oramai c'è, pazienza, non fa niente, però le voglio togliere, sto aspettando Andrea e Massimiliano che ci liberano i due bulldozer, i due mazinga, perché c'è un bel pesce, qui abbasso tutto e piano piano me le smonto. Le smonto, le pulisco e le conservo frasche. E sono soldi lì, e sono soldi sempre accantonati, che non li utilizzi. Una volta che sono messi da parte sono accantonati. Ed è un bel casino, un bel casino ai pesci. Quello che ti volevo dire, no? Non so, fra, non ti do torto, però quando hai quel tipo di licenza ti mette al passo, cioè non puoi stare lì a, capito? Mi sono sempre divertito, le volevo di polo, le volevo e basta, poi ho deciso di mettermi al passo e non solo liscio, amplificatore. Prova di la vannina, mi sono tutta il pesce, via vedrai dove. Prova di virare. Tutti i soldi lavorati, per carità, come fanno tutti, però c'è chi può spendere senza fare tanti sacrifici e c'è chi può spendere ma facendo sacrifici, come ho fatto io negli anni, capito? Perché quello che ho non me l'ha regalato nessuno, fra. Negli anni sono arrivate tutte le radio, tutte le antenne, tutte le cose che servono, però io ci bisogno, fra, è inutile andare a tirare le ronghi. La mia voglia di parlare è sempre qua, e qualche volta anche in due nusi, sono dei questiosi, c'è gente che è fattibile parlare, eccetera, scambiare due chiacchiere anche con il sud di Sardegna, centro Sardegna, eccetera. Però noi no, gasemo, fra, qua. Io avevo preso la patente nel 93 proprio per la detenzione delle radio, perché ne avevo tante. Si veniva a controllarmi, mi bollivano i manetti, quindi mi sono preso la patente, ma non per fare attività a livello amatoriale come fanno tutti gli animatori seri. Io gioco l'animatore CP2. Chi è questo? Chi? Ho sentito uno entrare, parlare. Chi è? Avanti. Ma tu già intendi, tutti lì, non sento nessuno. Forse quello di Alghero, Giuseppe, mi sembra. Prova a vedere. Avanti, chi vuole entrare? Non ho capito niente, ma Giuseppe sì. Cazzo, giorno me ne sono andato da lì, Santiago 9 arrivava a casa, cazzo, Santiago 3 in mezzo al QRM mi arriva, io non riesco a capire cosa è successo lì. Giuseppe, io ti sento, Santiago 3, tu mi senti bene, ma io ti sento Santiago 3, non riesco a capire quello che dici. Cosa ho detto, fra? Niente, non lo capiscono. Porca miseria, ma santo, mi dispiace a me. A non sentire Giuseppe, porca miseria, là, Santiago 9 arrivava là. Il giorno che abbiamo fatto quell'impianto, Santiago 9. Adesso mi arriva Santiago 3, Santiago 3 e mezzo al QRM. Come arriva a tutti? Non era quello che arrivava più forte di tutti. Marco riesce a sentirlo 7. Santiago 7 riesce a sentirlo, Marco Condor. A me mi è calato a Santiago 3. Io prima ho ascoltato molto meglio lo stesso, ma probabilmente è successo qualcosa, o qualche spettrone, qualche cavo. Ma non lo so, c'è l'antenna nuova, l'ha messo, però non l'abbiamo piazzata noi. Il cavo nuovo, tutto, c'è un bellissimo baracchino vintage, è molto bello, in base tutto in legno, molto bello, col microfono a tavolo. Anche un bel amplificatore, cioè c'è un amplificatore ZG sempre a 220, tipo quello che c'è, forse 2001 quello che c'è lui. Non arrivava una bomba, cazzo, adesso non riesco a sentirlo. Non riesco a sentirlo, non è un problema mio perché anche l'altro giorno c'era Coso ad Alghero e arrivavo da Valerio, arrivavo 9.10, quindi non, e Valerio arriva 9.10 qua. Perciò non è un problema mio, è proprio un problema suo, non lo so. Sì, sicuramente. Perché lui a noi ci ascolta, ma cioè lui ascolta, io ascolto a lui, però non lo capisco. Se avrebbe avuto la radio più chiara. Non capisco. capisci perché il segnale è troppo basso, perché l'ho sempre capito quando parla, però c'è il segnale è troppo basso e quindi mi rimane in mezzo al QRM, già è tutto impastato parlando perché ha un problema e quindi non riesco a capire perché già il QRM è tutto, non riesco a capirlo. Ho capito, hai messo a posto il microfono, quale microfono? Ho capito che c'era lo spinotto che non andava, l'hai messo a posto, ma non è il problema della radio Giuseppe, è il problema del segnale, sì, in mezzo al QRM, poi c'hai un fruscio sotto che non capisco se è causato dal QRM da che cosa, boh. Ma sta parlando? No, adesso no. Cioè sei, è sceso tutto al corpo. A me va la porta anche calcata, sempre Santiago 3, non va più QRM prima. Giuseppe, Dromido DG. No, c'è qualcosa sotto, boh. Che sento in lontananza, ti copre pure, pensavo che eri tu. Cosa vuoi che ti dica, guarda? Non so cosa dirti, non so veramente cosa dirti. Riprendi fra. Ehi capa, no, a me mi arrivano segnali di 4. La radio non, è la radio proprio che non riesco a capire. E io lo stesso, non riesco a capirlo perché il segnale è molto basso. E quindi la radio non è 5 perfetta e mi crea problemi a capirlo. Tutto qua, non è che non ci voglio parlare, per carità, è una persona che io stimo e alla grande, ma non riesco a capirlo, non riesco a capirlo, non so se è il segnale che mi sta creando problemi o è la radio, boh, non lo so, ma probabilmente c'era qualche problema allora, ciao, lasciami, ho appena una cosa. Aumentato a giro, sì, 9,5 sì, fra, 9 più 5. Capo, dai, lo lascio così, lo lascio, come era prima, già va bene. Ok, dai, bene, vela, perché quello che c'è di buono, questa radio, li posso abbassare la potenza come voglio sulle varie. Sì, sì, lasciala così. Nessun problema, io ti segnalo di cos'è. Ma vero c'è il contest, contest russo 5 bande c'è oggi, i sugar. C'è un dato di spettro del... Minchia mia segnale che... E dov'è? 7130. 40 metri, c'è il contest russo, 5 bande, 10, 15, 20, 40 e 80. Aspetta che gli attacco il dipolo, gli attacco e ci vado a vedere. Ma perché non si è sempre staccato lo danni così 80? Ma cos'è un commutatore, non ce l'hai? A commutare baracchini con il C80 va sempre attaccato, lo metti un'antenna va sempre attaccato. Ma sai, ce ne ho buoni anche, ce li ho, però mi pare che ne ripura un bel di roba, ne ripura, un bel di segnare. Ah, fra, se è buono no, vabbè, deve essere un commutatore buono, della Daiwa, della Comet, delle marche, della Diamond, delle marche buone. No, quindi il commutatore Zetagino. No, io non ne ho bisogno il commutatore perché io le antenne entrano tramite, te l'ho detto, il commutatore con l'elettronico e quindi commuto da lì. Capito? No, non perde assolutamente niente. A voi con 1000 di discese, io ho l'unica discesa. Commuto quello che mi piace. Mentre i baracchini entrano sulla T230, non so se lo conosci, quello è la Kemet, che fa da accordatore, rosmetro, wattmetro e commutatore d'antenna a tre vie. Cazzo, sì sì, no, là c'è uno buono, uno buono ne ho, di commutatore, uno buono, quello me l'aveva dato Panino, me l'aveva dato, e ce l'ho da qualche parte, adesso non so neanche dove l'ho messo. Poi l'altro è della ZG, però non lo metto neanche quello. per attaccare, per mettere un commutatore, se ne ascolto uno solo poi, con commutatore. Mentre così ho due cavi d'antenna e ne ascolto due radio. E perché con commutatore? Commutatore tu ce lo giri al contrario, no? Lo giri al contrario. Tu cosa fai? Ingresso del commutatore. Ok. Lo giri al contrario. Lo giri al contrario. E fai a quante? A tre. Tre radio puoi usare. E quando schiacci cosa gli fa? Per il vaso, se hai l'antenna su la radio numero 1, lui va l'antenna sulla radio numero 1, se poi giri a me cosa le fa? Io accendo il baracchino e cosa le fa? È chiaro che non lo devo mettere nello stesso canale, no? Lo metto per dire nel canale 40 o nel canale 20 in ascolto, non l'entro neanche, ma stiamo parlando di roba seria però, non commutatore del dettagino, se no non chiude, deve chiudere bene, non devi sentire niente, manco il QRM. Ehi K, dov'era? 100, 180, così? 130, 7130. Non può salire da via. È 7129.80. 9.30 sta arrivando. Io ho il commutato, sì, dipolo dei 40, c'è. Dipolo dei 40. Io ho il dipolo della 27. Cioè, mi sta arrivando quasi 9.10. Già va bene, va bene. No, io ho dipolo dei 40. Io quando non riposo lo fa piangere, se ne niente la campagna sul gomuccio. Ehi capo, cos'è travagliato hai? No, fra, tanto è pranzo. Ma già ho bevuto e basta. No. Allora mi muovo già per la domenica. Il lunedì sul giorno sono lì. Perché il muratore deve finire di dare una sistemata a piazzare l'altro pezzo. Figurati. Ehi capo. Arrivano forte perché te l'ho detto, c'è il contest russo, quindi ce n'è potenza nell'aria, 5 bande, e quindi sono tutti, se vai in 20 metri, vedi, in 20 metri lo stesso, in 80, via, adesso fra un po', ma già non arrivini, una schioppettata. Ma lì ero a Cosenni, in Oga, ma te sei in 40, e vera lì su... Irani, punti gli bisogna mi sono Irani, e uno attaccato, sai cosa gavo attaccato, arriva in loga segnale 3 e all'ultimo quando attaccato mi è arrivato 9.20, quasi 9.30 mi è arrivato, e la video ha detto, dice, no sono pochi, dice, sono 3.000. Io non sono niente quello. Ui. Ce n'è, quando fanno prove, io c'è uno che quando gira l'antenna sulla Sardegna arriva a 9.40, sulla Logico, 9.40, non so se l'hai mai sentito, Tonino G.U.O. si chiama, G.U.O., Tonino, non ho voce di tutto particolare, ma sudando ira, ciucciù. Vuol dire che c'è forza. Oh, una mano anche mi arriva 9.30, 9.40, a volte. Sicuramente quando lo sento normale mi arriva sempre 9, dal 9 non si muove. Ma quando mi ha attaccato quello lì mi arriva 9.30, anche 9.40. Sì, ma già ce n'è perché sono attrezzatissime, poi sono arrivatori ad alto livello, quindi un buffone c'hanno apparecchiature, la radio più piccola che hanno costa 10.000 euro, cazzo, boh, mentre si va a un pazzo di lago uscì. Ma è un casino, cioè il casino va a noi, va a me all'acqua, magari ci hanno messo anche delle rate a prenderci, perché ne sappiamo noi com'è la situazione. Ma però è una soddisfazione quando ce l'hai la roba, eh? E fa, ma no, non è che ci vuole la radio per fare attività, ci vogliono le antenne. Non è che quello che lui fa con la radio a 10.000 euro, io lo faccio con la radio a 1.500 euro, capito? È la stessa cosa. Ci vuole le antenne direttive, ma ci vuole anche l'aiuto dell'amplificatore se vuole fare il capo al mondo. Perché io ho contattato con mano. Quando c'è il pelap molto molto forte, se non agganzi, ed è almeno quello, io ho 2 kW, 1 kW 8, 1 kW 7, eppure lo tengo sempre a 6, 700, massimo 800 watt, però se non agganci non passi. Lo so che non passi. Comunque è bello quando vedi cose così. E poi il mio dipolo è puntato a qua, a dove è Platamona, verso Platamona. Infatti lo devo girare per Sassari a vedere come arriva. Ma se tu gira a Platamona arrivi a Tino, il cuore non ti sento io. Devi fare un braccio verso Platamona, l'altro braccio verso Sassari. Devi mettere la V invertita, come te l'hai buscio? In orizzontale. No, non è orizzontale. La V invertita giù. È agganciata ed è ancorata al muro del carraccio, è ancorata. Però ma il dipolo non c'ha una parte che spara e l'altra no. Se tu mi metti il polo caldo, quindi il puntale per farci capire, verso Platamona arrivi meglio a Platamona che con la massa verso Sassari, no? Quindi io ti consiglio di metterlo in orizzontale, stesso, come il filo da stendere, girato verso Sassari, verso San Camillo, e allora vedi, dici, beh. No, ma se giro il polo caldo verso San Camillo, esco bene lo stesso perché in alto è sotto l'antenna, sotto la mantova, Emi. Ma è a V invertita, fra. Se tu elimini la V e lo metti a polarizzazione orizzontale, praticamente, steso, piradomi, come se un virus SD, esce molto meglio. Sto già lasciando il produttore, cioè, con l'antenna mi arrivava a 9.10, con il polo mi arrivava a 9.5, messo a polarizzazione orizzontale. Vabbè, come faccio a metterlo così? Non ne ho di tetto a buttarla lassù. Sarei avuto la cuba suia. C'ho un terrazzo e basta. Terrazzo mica ci posso mettere un filo così. No. Uno, ci sono gli isolatori col pezzo del cavetto per agganciarlo. Uno lo agganci, un braccio lo agganci alla mantova. Dall'altra parte devi avere un altro tubo che ti mantiene l'altro braccio, no? Quello che non c'ho, capito? Dove l'aggancio? Dove mettere un altro palo? Ma lascia così. No, io ce l'ho, c'ho un palo da una parte, un palo all'altra e steso il dipolo dei 40 metri che poi ti ho detto fa 15, 20 e 40. Infatti con quella lì io andavo prima, poi adesso lo uso solo in 40 perché c'ho le direttive 10, 15 e 20, capito? Però c'ho due pali da una parte e all'altra del tetto del palazzo e lui è a polarizzazione orizzontale steso tirato da una parte all'altra, capito? Siccome di polo che c'ho io fa fronte retro e anche i due angoli e quindi va da tutte le parti, non ho mai avuto problemi né a nord né a sud. Io sono a Sassari che ho problemi che mi ascolti e poi il resto non devo andare al portatore, al portatore ci arrivo io. Beh, ci arrivi bene a Tino, ho visto che Tino ti ascolta bene. No, qua arrivi Santiago 3, 2, 3, riesco a capire ciò che dici, però arrivi molto basso. Se invece messo in un'altra, messo diversamente, sicuramente arrivi molto meglio, capito? No. Ma è l'antenna, se stai a girare il bibliotico di polo, lui, passa perdere. Vabbè, quello l'ho messo per tanto per ascoltare un'altra radio, capito? quindi è un altro, a parte questo della 27 lo devo buttare giù, lo devo buttare. E uno dei 40 metri pronto a fallare. Con quello la correttore già ti diverti lo stesso. Ci esce bene lo stesso. Perché tu devi considerare sotto multipli, capito? 7, 14, 21, 28, e 4, 7. Quindi sono sotto multipli delle antenne. Quindi con quello dei 40 vai bene anche l'altra parte. Non c'è problema. Vabbè, è che è più lungo, quindi lo devi mettere diversamente. Però la 27 quanto è? 2 metri, 2 metri 10, 2 metri 15, quanto è? Sì, una cosa del genere. No, è incrociato quello del 40, è quello incrociato. C'ha i tubi da una parte all'altra ed è arrotolato. Mamma mia. Ah, non è full size, a banda intera. C'ha le cose, come si chiama? Le bobine c'ha. Cappa, l'ho voluto così perché non c'ho posto, capito? Ma per allungarmi, non c'ho posto. Se avrei avuto posto, sì, magari. Vabbè, ma quello fallisce. Se l'avessi usato a livello amatoriale ti crea problemi. È un casino accordarlo così. Ci vuole spazio, vuole steso, tutto bello, messo a voi invertita, allora esce un capolavoro. Quando comincia a far ciocca, una base all'altra, esce un casino, esce. No, ma io mica ci devo parlare, devo solo ascoltare e basta. A me mi interessa che mi arrivi a disegnare il vostro. E appunto, per ascoltare vai anche bene, però se lo dovevi usare non ti rendeva la mia trasmissione, capito? Non ti rendeva. L'ho messo in alto, deve lavorare da terra, tu immaginati il mio 6 metri dal piano del tetto, dal piano del tetto si è levato 6 metri, perché deve vedere la strada, deve vedere spazi. Se vede il tetto no, non vai da nessuna parte. No, non è vero il tetto, che già è alto, c'ho 6 metri di palo e sotto proprio la mantova, figurati. Con la carrucola l'hai messa, voi invertita con la carrucola? No, senza carrucola questa, quello che c'è adesso. La carrucola gliela metto dopo. C'è la carrucola, ma lo puoi abbassare e sollevare. Capito? Perché fa la scimmia, ogni volta si abbassa l'antenna, è un casino. No, il mio è altezza d'uomo, non c'è problema. 6 metri però c'ho il gancio, lo sgancio e lo abbasso, ma fino adesso non l'ho mai toccato, anzi sì, l'anno scorso gli ho cambiato gli occhielli, perché il mio essendo a tre bande, c'ha gli occhielli tutti uniti assieme con i bulloncini, capito? Tutto diretto, non ha attacco di BL. Io lo stesso ho comprato già le carrucole, ne ho comprato due. E infatti adesso non lo so se questo dipolo lo butto giù oppure glielo lascio e uso questo, lo uso per ascoltare un'altra radio in modo che ne abbia fredda almeno uno di 40 metri e uno da 27 di dipolo. Sì, il sistema è quello, avere le antenne che ti permettono di ascoltare bene, altrimenti non fa. Cioè andare, va bene. Ehi, capita, sempre a bomba e arrivando gli idroghi. Sempre? Quello là, sempre a bomba sta arrivando qua. Sì, io c'ho il volume basso, ma vedo il monitor, l'avete fatto rispetto. Vabbè, 9:20 si arriva senza l'amplificatore dell'antenna inserito, arrivano bene. E getta domani, oggi sto preparando i buzzi, qualcuno è già nell'aria, ma domani, sabato e domenica, contest russo, sabato e domenica, domani intendo il gioco, ma non c'è spazio manco a fare questo, poi con il dato rispetto te ne accorgi subito, sono tutti attaccati uno all'altro, punte su punte, qualcuno si accavalla, anche se a largo con il dato rispetto, però sono tutti uno dietro l'altro, non c'è spazio. Adesso questo è 7129, a 131 ce n'è un altro, a 134 ce n'è un altro, a 136 ce n'è un altro, cazzo sono tutti uno attaccato all'altro. Sì, sono... Ma, infatti le mie voci intengo, la voce che cosa, la voce mi stufa e la cerca. Ce ne sono che non riesci a sentire, ce ne sono che arrivano a bomba. Ma perché tu non avendo l'adatto di spettro così 80, praticamente senti splatter, capito? Però io anche a volume basso vedo che l'adatto di spettro si solleva una punta alta, poi c'è l'altra bassa che sta parlando l'altro a fianco, poi c'è l'altra alta, un'altra bassa, due, tre, beh, da là, due alte, sono una attaccata all'altro, dici, ma va. E cosa di nembacco? Va. Una è a 129.80, l'altra è a 130.50. Ma come si fa? È il pulso della mezza di bene, no? 130.50 ce l'hai tu. Ehi, io sto ascoltando 129.80, ma c'è un altro che è a 130, te. Dici a vedere dove sei. Ma 132. 127.45 l'altro ti ravvisi, l'altro da 129.80, cioè sei troppo vicino, capito? Disturbi, non va bene. Questo stesso numero dove si arrivi da là, di che forse donna là? Quella 127.45. No, 130. Sì, 130, quello lì te l'ho detto. C'ho il picco io che sale, te. Va. Un casino, sono tutti uno ammontonato all'altro. Sono tutti uno attaccato all'altro. La razza di mania di Urbanica. Per carità. Con tutto lo spazio che c'è, si mettono tutti uno sopra l'altro. Infatti. Beh, abbasciami. Sono attaccati sì, tutti gli altri attaccati, uno vicino all'altro. Ma non fanno le cose così, questi. Ogni anno c'è, questo è un contest a livello mondiale. È un contest russo, 5 bande, 10, 15, 20, 40, 80. E poi c'è anche la telegrafia, stamattina c'era un bel di gente in telegrafia. E vabbè, ma quelli anche se li senti non li capisci. E devi decodificare. O è il decodificatore collegato al computer, oppure se hai studiato la telegrafia, se stai attento già sai quello che sta dicendo. Vabbè, ma devi studiare la telegrafia, però non è che avevo già fatto. È un edificio, non sai cosa è difficile. Vabbè, adesso perché poi la patente adesso è... basta studiare solo la fonia e via. Come l'ho presa io, ci mancati 3 mesi, ma lui non organizzava che cosa. 3 mesi facendo la telegrafia, io l'ho fatta. Anzi, io non ho fatto niente perché mi hanno esonerato. Non ho fatto esame di telegrafia, però Vanino gliel'ho fatta con la rottura del balle. Già lo vedevo quando si esercitava. Cazzo Maria, lui la mano Maria era gli teneva la lingua, quindi poco di telegrafia. Caspita, a me mi va vendendo questa cosa in capo con quegli affari piccolini, e troviamo un altro vento, e poi la guerra dove leva, e me cos'è? B. E ogni tanto risento che se tu vai più giù ci sono. E c'è qualcuno che parla sempre con questa telegrafia. Tu non mi vedi mai a chi non mi comprende. C'è molta gente che va in telegrafia anziché fonia. Parecchi ce ne sono. ce ne anche molto bravi. Vabbè, anche piace, io c'ho il fatto della camp, l'uovo nuovo, conservato, l'avevo comprato alla fiera di Genova, Vantore, tanto mi sono divertito con quell'uomo, che tre volte sono andato alla fiera di Genova con lui, ma lui scimmi, mi telefonava il venerdì, cosa devi fare domani? Nulla, perché? Ah, io andiamo alla fiera e rientriamo mica mattina, cazzo ci siamo lì? Ah, io sto passando a più, ti stiamo andando a fare il biglietto. Tre volte sono andato a fare compagnia, tre volte alla fiera di Genova, sono stato a quella di Novegro, che eravamo in tanti, e poi anche alla fiera di Genova, però eravamo in tanti lo stesso, ma ero il W0, non ero IS0. Ma Lontore è il mio divertimento, è il mio divertimento. Facciamo tutta la lì, rivende in fiera, tutta la lì, ma adesso a comprare nulla a me. Andavamo così a passare sabato e domenica in fiera, mangiare fuori, una magnata di pesce ci facevamo a Genova, lui aveva degli amici, gli amatori, ferrovie, fisciuga, venivano a prenderci alla nave, ci portavano a pranzo, oppure andavamo alla fiera alle 3, fino alle 7 stavamo in fiera, fisciuga. Quanto mi sono divertito con quell'uomo, veramente. E poi ci sei molto, ragazzi, ci sei molto, c'è stato in nuda, burro, usci, prendici la doccia. Dicono che la morte migliore quando non soffri, un colpo e basta. Poi non ha sofferto, un poverino. Stava facendo la doccia. Stava facendo la doccia, è entrata a farsi la doccia, e la doccia era nuda. E nella doccia l'ho trovata, mi ha avvertito un'ora dopo, un paio d'ore dopo, ha telefonato Sandro, il figlio. Io il giorno prima ero con lui, figurati, e mi ha detto che doveva andare a fare delle visite, che non stava tanto bene, e invece non venivo a fare la visita. Un infarto sotto la doccia ci è rimasto. Cosa che capita, perché tu hai fatto la doccia, l'insulta, cioè tutto sotto la doccia. Un amico mio in Olga è amico, è più grande di me, però erano amici. A casa seduto nel divano, quando lasci danno, dove la bimba, tutto un colpo, torto. E non vedi niente, uno era tutto bello, la testa, un altro amico, che era di Varo. L'altro è sempre tutto bella, con quadri rurito la notte, chi se non se ne è mai visto. Se ne ha visto lo fradeggio, un anziano che l'ha detto, ma non ci vai a lavorare. Caso dove è andato? Cosio si chiama? Il padrone di San Giovanni. Un'educazione e un rispetto che aveva quell'uomo dietro il banco, vabbè, lui stava sempre al tabacchino. San Giovanni, tutte le domeniche Massimiliano che mi hanno preso il caffè, ma aveva una simpatia con l'uomo allucinante, veramente un signore. E adesso rimangano, si è pigiato per andare a prendere, a aprire il bar, perché lo apriva sempre lui, poi arrivava il figlio, la nuora, infatti adesso c'è il figlio con la nuora, o la nuora col genio, cioè la figlia col genio, adesso mi ricordo. E gli ha detto, no vai, fammelo qua il caffè così, ora, andiamo a fare il caffè, ed è della moce di mano. Figurati. E poi, quello di Totobella, forse lo conoscevi tu, che era guardia lì a Leniche, si chiamava Natalino Fiori, tanti anni, parlo di anni, un bel anno fa, me. Natalino di Totobella, certo l'ho conosciuto, sì. Ci ho fatto 4 anni con la SNAM, io entravo e uscivo, ogni volta entravo e uscivo mi controllavo la panda della SNAM Progetti. Cosa stai portando fuori? Ma ve la vai o non ve la vai? Infatti avevo detto all'ingegnere della SNAM che rompeva le scatole. Ma lì mi ha frusciato, lo ero un brucio, perché no, c'era la sbarra aperta e io sono uscito senza normalmente, ma lì lo sai, quello della Zaga, il padrone. Tu mi ha frusciato, tu sono tornato indietro, mi ha detto, ma quando qua si esce senza neanche farsi vedere, se c'è la sbarra aperta allora chiude la sbarra, lo seguì da me. Ehi capo, quello è morto sul divano, a casa sua. Liscio tutti gli incazzaduri, l'abbiamo fatto begliarmi fa. No, era un bravo ragazzo, ti aspettavo. Era un tipo, era giovanissimo quando è morto. Infatti il figlio lavora con mio fratello in officina, tutto bello. Ma mi vuoi meccare che ci era? Io ci faccio memorando che poi articolate mezzo del male, togli questa macchina! Natalino, era una persona in gamba, era. A me non aveva fatto entrare lui la prima volta lì all'Enite, in cooperativa, tramite lui. Ma lui dice, ma non avete la forza? Tu no, dice, ci volete andare, che ci parlo io, non vale. Un domani mi chiama, e ti ha detto che a me c'è due amici, io ho detto tutto bello. Si dice, ma tu da un'altra maglia, ma domani presentatevi in tal luogo, venite a Italia, penso pure io, che fa vedere di questa bassona. Siamo andati, ho parlato, dice, da domani a lavorare. E ancora vedo, aspetta, a Italia. Ah, hai fatto 30 in cani, credi? Ma è così. Io avevo mia figlia troppo piccola, se no quando noi abbiamo finito l'impianto del carbonile, gli alleni che cosa erano progetti, a me mi volevano portare fuori all'estero, il primo cantiere estero, a fare il capocampo praticamente, e c'era da contare, quindi dovevo avere tutti i materiali, tutte le cose, capito? Ma non me la sono sentita, la verità, ero troppo ragazzo, ero troppo giovane, mia figlia era piccolina. E quindi ingegnere, diciamo, Gilberti, se non mi ricordo, mi ha detto, ho trovato la possibilità, o viene con noi, mi pare era in Tunisia, una cosa del genere, in Tunisia, devo andarlo io. Figurati, 8 milioni netti, puliti, 8 milioni puliti, spesato di tutto. No, non me la sono sentita, erano tanti soldi, ma non me la sono sentita. Allora mi ha detto, guardi, facciamo una cosa, visto che è una brava persona, si è impegnato tanto con noi e ci dispiace lasciarla a casa, abbiamo iniziato il cantiere alla Saras, stiamo facendo 72 pollici del pontile della Saras a San Rocco, 72 pollici sono mani, insomma, il dubbio a Trento, il dubbio a Dritto, e lascio fuori a Sardegna, figura di dubbio. Grandissimo, grandissimo lavoro quello. E sono andato lì a lavorare, sono andato lì, al pontile della Sara. Ci ho fatto anche un paio di mesi sopra la piattaforma che c'era fuori. E poi da lì, quando è terminato, mi avevano offerto altro, però no, assolutamente. Nel frattempo io, in quell'anno lì, nel 90 avevo fatto il concorso, però non avevamo notizie di nessuno. Nel 91 hanno fatto una selezione, adesso mi credo per titoli all'ESAF, e mi ha giovato lungo al vario, però era un bellissimo lavoro che mi piaceva un bel, e di Raghi non vera. Guarda, io nel 90, sì, 90, nel 90 c'ho ancora le buste paghe, si vedono poco, prendevo in lire, perché la paga globale, in lire prendevo circa 3 milioni. Vabbè, se vedi quanti ore facevi anche, quanto, che tipo di livello e tutto. Un quinto livello metalmeccanico ero. Ero un aiutante tubista, non ero manco tubista. Ero aiutante tubista. Però sapevo fare il mio lavoro perché mio cognato mi aveva insegnato un sacco di cose, avevo lavorato con lui, era capocantiere alla SACEM, a Pro Torres, avevo lavorato anche lì e quindi avevo imparato un sacco di cose. E lo sketch lo conoscevo, i lavori sapevo fare, eccetera. E quindi pagava una paga globale, 3 milioni, 2 milioni e 8, 2 milioni e 7, gli stipendi più bassi che prendevo. E partivo il lunedì e rientravo il venerdì alle 4 e mezza. Però venerdì me ne andavo alle 4:30 e da lunedì al giovedì praticamente, anziché uscire alle 4:30 dentro lo stabilimento, facevo 2 ore in più, capito? Uscivo alle 6:30. Ero lì, cosa facevi? Andavo a casa, perché abitavo lì, eravamo in tre di Sassari, capito? Viaggiavamo tutte e tre da Sassari e abitavamo tutte e tre assieme, avevamo 300.000 lire di affitto, 100.000 lire a testa, c'eravamo una casa, non grande, comunque c'erano 2 stanze da letto, un salone piccolino, angolo cottura, bellina, lì sempre vicino alla Saras, capito? E quindi quelle 2 ore che facevi più dal lunedì al giovedì era tutto straordinario, quindi era di nato. Chi ci me ne diminuivo io? Per viaggiare, per comprarmi quello che mi serviva, e la volta mia moglie. Ma avevamo un sacco di soldi, si stava bene. La verità, stavo benissimo, colleghi alla grande. Infatti Cagliari mi è piaciuto tantissimo, e quando sono entrato lì la prima sede che mi avevano dato era proprio Quarto Sant'Andrea. Infatti questi amici dobbiamo andare adesso il 2, che c'è Cagliari Juventus, e sono ospite da loro io. Bellissimo rapporto ottenuto negli anni, ci sentiamo spesso, un altro di essere esiata che si può far vedere che i Cagliari tardi di buco di Gugliurati. Io a Natale ero lì, a Torino, se volevo andavo, entravo anche gratis, e non so mai andato da lì. Io non ci sono andato, la verità, ne ho viste una tanti anni fa proprio a Torino, però non ho mai più avuto la possibilità, perché purtroppo sai, tu l'hai fatto, quindi anch'io c'avevo i turni, tu facevi le notti, io dalle notti ero uscito fuori, però non era fattibile, capito, perché lavoravo un sabato sì, un sabato no, amica sì, amica no, le feste le lavoravo quasi tutte per, ecco, dove erano i sacrifici, stavamo parlando di prima, perché la passione della radio era tanta, quindi dovevi ti cacciare fuori i soldi per poter comprare, fare, capito, e quindi sono i sacrifici che ho fatto, perciò a volte dicevo, ma lo fai Pasqua, cazzo, io devo andare fuori Pasquetta, vabbè, vai, te lo faccio io, va. Chiama, fai cambiare la giornaliera, già te lo faccio io, quindi le denari pigliava Edo per festivo, me li pigliavo io, e ne ho fatto tanti, e quindi non avevo quella possibilità di andarci, quando, non dico sempre, ma cazzo, una ve la voglio vedere, cioè, io a Ronaldo lo voglio vedere in faccia. Sempre un paro, un casino. Vedi che c'era qualcosa che prendevi lo stipendio in più, perché c'erano straordinari, c'era Rugrino, c'era un Travaglia, e poi anche lontano, ma è un bel da entrare, che sono sacrifici quelli lì, soprattutto per avere il posto di lavoro. Adesso giuro, ovvero io, e non si possono fare per legge, ti vogliono far fare, ti ricordi tu i vecchi 2-2-2, 6 giorni settimanali, con Ravisi voleva fare per non assumere personale. Lo so, molti stanno facendo così molti stanno, molti stanno facendo così, perché abbasso l'interruttore, spento il commutatore elettronico. Molti stanno facendo così, sì, me l'ha detto anche un mio ex collega, quelli praticamente che sono al portabilizzatore di Pedra Maiore, no? Quello che c'è tra Sassari, Valle d'Oria, Castelsardo, quello grande in alto, la zona di Siede, la zona di Santa Maria Colina, Siena, stanno facendo i turni perché sono organico molto molto ristretto, e stanno facendo, prima avevano, quando facevamo noi avevamo 2 giorni di riposo, invece adesso un giorno solo riposo e poi riprendono. Pesante, 2 minuti e un giorno di riposo pesante, perché a parte che non è un giorno di riposo, che è di meno di un giorno, perché sei smontante, tu smonti alle 6 di mattina, come fai a dire che è un giorno di riposo? infatti lì il problema. E poi cosa succede? Che devi riprendere nuovamente dalla mattina. Non è che fai per dire riprendi 2.10 oppure 10.6, no, riprendono, o perlomeno questo collega mi ha detto, che dopo il riposo riprendi nuovamente 6.2, quindi cosa hai riposato? Non hai riposato nulla? No, non riposi niente, no, e che è? Perché il giorno che smontante non mica si conta quello lì, però loro lo contano, anche quello lo contano, un giorno di riposo, no, non è una di riposo. È un giorno e mezzo, facendo i giorni come dicono loro, no? Un giorno e mezzo di riposo. Sì, sì, è così. Oppure fatti partire nuovamente col pomeriggio o parti direttamente dalla notte, no? 10-6, il rientro, fai 10-6, quindi cosa succede? Sei smontante, c'hai tutta la giornata, ok, per riposarti, e poi c'hai l'indomani, hai tutta la giornata lo stesso, perché se vai a lavorare alle 10 di notte, ma se tu poi riprendi alle 6 del mattino, praticamente non hai riposato manco una lì. E infatti è così, perché se tu parti col pomeriggio devi partire, come noi l'abbiamo fatto quel lavoro lì, sono partito col pomeriggio, due pomeriggi, due mattine e due notti. Quando abbiamo fatto la seconda mattina ci avevamo tutto il giorno, cioè dalle due liberi sino all'indomani notte liberi. Quello è un riposo bello bello forte. Ma quando sei sotto organico fa le studiano tutte per mettertela nel QSO, hai capito? E anche da noi così. Infatti vabbè, io quando ero al potabilizzatore di Perfugas facevo solo 6-2, 2-10, due turni solo c'era. Alle 10 mettevo il selettore in automatico e me ne andavo. E poi si riprendeva la mattina alle 6, capito? Sempre due turni. Invece quando ero a Tronco Reale facevo tre turni. 6-2, 2-10, 10-6, a Monte Agnese la Trasartosa, capito? Però era praticamente facevi due mattine, due pomeriggi, due notti e due giorni di riposo, però due giorni. Due giorni sono, allora sì, che va bene. Ma no, come io stamattina stavo parlando con un mio collega, ex collega, là, e ti dico, sono intavolati neri, sono. Sì, non ti pagano gli straordinari, dice non ci stanno pagando gli straordinari e noi non gli vogliamo fare gli straordinari. E loro ti ricattano lì in poche parole. Allora, è sempre stato così, è sempre stato una merda quel tipo di lavoro. Io l'ultimo anno era una lotta per la sopravvivenza. Come sapevo me ne stavo andando, quindi ho perso dignità e rispetto, è la verità, te lo dico con molta sincerità, fa, perché era una molla. Una volta che mi hanno, allora il mio lavoro era praticamente la mia giornata, io avevo, anche perché avevo molte responsabilità, soprattutto nel periodo estivo, perché io gestivo nel periodo estivo la zona che va da Badesi, lascia perdere Santa Maria Coghinas, ma da Badesi fino all'isola Rossa e Vignola, che è molto ma molto pericoloso, compresa l'acqua fantasy, compreso l'impianto della marinetta, dove ci sono tutti gli alberghi, ci sono delle cose pazzesche lì che se ti sfuggono di mano ti arrestano. Perché è successo una volta che è scoppiata la condotta lì all'isola Rossa Porto e si è riempita tutta la spiaggia di Melma. Guarda, c'era arrivata guardia costiera, guardia finanza, carabinieri, sorvegli di NAS, ti dico cosa vera, mancava già il Presidente della Repubblica, però è stato contattato a me, mi hanno subito messo in stato di fermo, nel senso che non mi hanno fatto muovere da lì perché volevano sapere di tutto e di più. E poi invece è stato constatato che è scoppiata la condotta sottomarina e che quindi c'è stato il rientro delle pompe, come si sono staccate, ne ha buttato fuori tutta la melma, ci sono condotte sottomarine lì, capite? Perciò lasciate lì. È un grande sacrificio, ma io lì non a un certo punto l'ultimo anno non avevo rispetto a nessuno, l'ultima estate che io ho fatto si rifiutavano di venire a fare i controlli lì, chiedevano al mio responsabile di zona, al responsabile del distretto, che io ero sotto di lui, chiedevano chi c'è di turno alla Marietta, Marti, allora non ci andiamo, non vi venivano più, e come venivano, mi ascolti, cosa sei venuto a fare qua, a rompermi male, parlavo male, vada, so quello che devo fare, io vada, ma c'è una visita, vada, lo potete andare, vada a controllare da altre parti, non ci venga qua, ma mancavo qua, ero diventato una cosa allucinante, insopportabile. Infatti quando ci sono andati, che poi quando me sono andato io, che poi siamo rivisti, ho chiesto scusa, avevano capito che ero proprio scoppiato del tutto, abbiamo fatto il pranzo eccetera, avevano fatto anche un bellissimo regalo, hanno regalato un bellissimo orologio che non sto neanche mettendo, se non mi viene il gatto mamagnaccio. Ehi capo, da noi erano, da noi quando sono andato gli ho detto che dovevo andare in pensione, e allora mi ha detto che volevano sapere, vedere quanti giorni di aspettativa, di cosa volevano, no? Quanti giorni, adesso non mi ricordo come cavolo è pronto, vabbè, comunque già hai capito. E mi ha detto, dice, no, te ne puoi andare, anche da subito te ne puoi andare. E mai me l'avessi detto. Sono andato veloce, mi ho portato via tutto. Ciao e arrivederci. Io ci parco già della mafia, ci ho fatto già un'altra scrivania e mi gioco andato. Ma sai cosa ho fatto io? Io ero in ferie. Mi viene da dire, perché un'azione così ci vuole coraggio a farla, è la verità. Ero in ferie, fra. Sai, era anche il periodo, pare era settembre, c'era ancora caldo, c'era ancora belle giornate. Era lì, c'è un rientratore in ferie, mancava, avevo già preparato tutto, i documenti, mi pare mi mancasse un mese, due mesi, una cosa del genere. Settembre comunque, ottobre, in ottobre, novembre, primo dicembre sono andato in pensione, quindi un mese e mezzo. Entro alle ferie, era il 13, mi pare il 15 settembre, entro alle ferie, vado a sorso con la mia macchina, no, devo c'era l'impianto, quello con sortile, sono sul segno, parcheggio la mia macchina, timbro, trovo io l'agitazione, mamma, giù una gara, un cazzo qui da via, giù una gara, subito è arrivato il dirigente del distretto, ma tanti guardi nella bacheca c'è l'ordine di servizio di quello che è rimasto indietro, mi raccomando, me lo completi, perché siamo veramente nella cacca, altrimenti non riusciamo ad andare avanti con i lavori. Sì, dottor, si preoccupa. Io non ricorrerei da chi. Guarda, mi correva, vai per cazzo, no? tu sei un pazzo. Beh, prendo il servizio, vado a prendere il mio collega a Santa Maria Coinas, si muce la mia macchina e lo dico, ecco, non ho voglia. Tiugra mi chiamava, questo Cagliarettano, Tiugra, parlava in Cagliarettano, non mi caghi giù, dovrebbe, cazzo insomma, mi diceva tutti coloro, dico, ti ho detto che non ne ho voglia. Quel fornitore che c'è nuovo nella strada che va in Badesi, che c'è anche il bar, Centro Kiwi, quello già per l'Italia, già attivato, Centro Kiwi, come stai là? Ah, io penso che fai giro a me e balla, cazzo, che sono le 8 del mattino, ma aveva voce a correre, mi detto non ne ho voglia, mi ho detto non iniziare a rompere perché me ne sto andando, beviamo un caffè, invece di girare all'Isola Rossa per andare a Trinità, no, facevo Trinità, scendevo e poi facevo l'Isola Rossa, cazzo, dove andare? Dove stai andando? A Sorso, e dobbiamo fare a Sorso, dopo lo vedi, aspetta che ho ricevuto una telefonata, invece non era vero, passo a Sorso, entro al cancello, mi prendo la roba dalla macchina, Nico, ciao, Fiora, Nico, ciao, cioè proprio, ma cazzo, una legge della vita. Ma ti torno indietro, non si sa mai che mi facciano casino. Vabbè, tutto torno indietro, ci sono proprio, già sono qua a sorso. Piglio la macchina, timbro, piglio la macchina e mi avvio. Come l'ho visto a fine giornata che ho timbrato senza, perché cioè, se te ne vai devi avere la motivazione. Ho timbrato prima delle due, ma sono andato. Ma non ho detto niente, no. Assolutamente. Assolutamente. Non mi hanno detto manco ba. Mi arriva la lettera a casa. Mi hanno fatto la lettera a casa che se non mi presentavo al lavoro, non mi presentavo al lavoro, il giorno successivo mi avrebbero licenziato per giusta causa. Capito? Mi avrebbero licenziato, quindi succedeva un casino forte perché cazzo, cosa stesso casino. Però sono rientrato, ho chiamato in azienda e praticamente ho organizzato una riunione con i dirigenti, ho firmato e gli ho dato 8 giorni, ho dato fra. Mi hanno costretto a fare gli 8 giorni, non dovevo mancare manco un giorno. Gli 8 giorni, come ho finito gli 8 giorni, allora loro mi hanno dato il preavviso licenziamento per giusta motivazione, per perfezionamento, capito? Ma mi ha già combinato di casino, mi da arrestare. Ehi capo, sì, se loro ti chiedono i giorni, 8, 10, 15, non ti puoi rifiutare. Però se loro ti dicono che te ne puoi andare subito, allora bevi una tutto, ma a me mi ha detto andammi subito. E un gabbio qua non si è incazzato a Musa, si è incazzato con me. Non te ne puoi andare! Ah, bene, bene, gioco, ciao! E non si dorme, ehi, casa d'arrivo c'è. E io mi sono andato, e non mi voglio andare in ferie, non mi voglio andare. Quando mi sono messo malattia, una ghida. Alla ghida presso, ho finito la malattia, ha detto, vabbè, cosa vogliamo fare? E vattene in ferie, vai. Io intanto non so che non ci rientri più. Ah, che alla vita che lo sai. No, ma alla fine non si è arrivato a fare, diventi anche insopportabile. Non maleducato, no, perché non l'ho mai fatto, però non mi ci portavano in più. A me non mi vedeva il responsabile di sette, c'è ancora qua, sì. Ma usa pure a me. Alla fine la vuoi tu, ma usa pure a me. No, male, me ne va, non ti preoccupare, poi piangi, e infatti io appiento, perché la prima estate senza di me in quella zona avevano messo uno di fuori che praticamente non conosceva la zona, ci metteva un bel di tempo a spostarsi da una parte all'altra perché sbagliava strade, lo chiamavano, non sapeva manco in diera, un casino. Infatti a me mi avevano proposto se volevo rientrare con un contratto part time per il periodo estivo, anche dandomi un bel po' di soldi, il doppio di quello che prendevo fra. Gli ho detto, lei a me ne può dare 10.000 euro al mese, io non ci rientro più, perché i soldi non mi interessano, non mi interessa la testa, io mi state facendo scoppiare il cervello, io non ci vengo più, basta, finito, finito. E allora mi telefonava, non mi ha dato, ma il coso, il sistema dell'arma dell'Isola Rossa, ma cazzo, spiega come si resettava, allora, ma sai che ti vuoi che ti ho il telefono? Poi ho cambiato numero di telefono, poi ho finito, allora mi dicevo bene giù, poi ho finito, l'ho dato solo a quei pochi colleghi che sanno fare il suo lavoro, che sono bravissimi, che qui non avevano bisogno di interpellare a me, e ci sentiamo qua tutte le settimane, con Nicola, a me anche ieri siamo sentiti, anche ieri, infatti tutte le volte viene a Sassa andiamo a pranzo assieme, viene a casa a pranzo, o ce ne andiamo magari a mangiare da qualche parte, perché a lui le piace queste trattorie, hai capito, così, per dirti no fra. E poi, quando di coppia lo dai bendo, a me il denaro me l'ha fatto in onda, io l'ho scoppiato, io arrivo a casa al cazzo che parlavo da solo, capito? E c'è un rilassamento adesso, che a volte dico, ma come ho fatto io a resistere 25 anni lì dentro? Come fai? Se non vuoi, se non lasciavi andare, quello lì era il fregato, già va bene così. Tutti abbiamo scoppiato dentro, per l'Italia, ma solo noi ultimamente non si poteva più stare, sempre aumentando lavoro e denaro in lupo, per ma io quello non lo devo fare, tu non lo devi fare perché lavori per noi, quando fai quello non fai altro, hai compreso, non è la fottia, Eddie, ragazzi, tu mi lo sai che bravo all'indarizzo, l'altro bravo all'indarizzo, non è proprio per niente. No, ma era una lotta, e poi la cosa che dava fastidio a me, fra poi la chiudiamo qua, è che molta gente pensava di essere furba, capito? Perché poi alla fin fine io l'ho diventato anche un po' più furbo e monello anche, no? Perché non faccio la giubù di intatti, capito? Periodo per esempio di carnevale, periodo di Pasqua, Pasquetta, eccetera. Tutto a me non mi vuol dire che a Pasqua c'è, ogni festa c'è un matrimonio, ogni festa c'è un battesimo, ogni festa c'è tua moglie che sta male, e tu che vai sempre a me a tappavo o a Nicola, questo mio carissimo, veramente con la S maiuscola, ex collega, sempre a noi toccava, e lui fine settimana poverino doveva andare a Cagliari, perché lui abita a Santa Maria Covina, c'è una casa a Santa Maria Covina, aveva una fesseria, c'è una camera, cucina e bagno, però quando non era di turno si andava a Cagliari, capito? E rientrava magari lunedì, no, ogni sabato e domenica il tobizzino doveva rimanere a disposizione perché gli altri non ci venivano, e quello mi dava fastidio, e molti li abbiamo scamati, capito? Fatto fotografie, mandate all'azienda, e hanno preso colpi grossi. A uno l'hanno fatto la lettera per come si chiama? Di ammunizione per 15 giorni senza stipendio, un altro per 30 giorni, un mese senza stipendio, capito? Perché facevano certificati falsi. Cazzo, tu sei malato, devi rimanere a casa, sicuramente io sabio il movimento, e uno è senza far nome di sorso, no? Io già mio di battigava, più di una volta della Giaudorua, fotografato, macchina, tricche, tracche, ballacche, in orario dove doveva rimanere a casa e mandato in azienda. Sono carognate, fra, sono carognate, però cazzo tu a me non mi vuoi bigliare a paroguro, se mi dici qua, non ho voglia, io ho bisogno di me lo fai, ma no, che ti fai 3 giorni il certificato medico per andatini a badare, balere, no, a casino dei nandi. Quello poi è un casino. Noi ne avevamo uno, un collega che c'è ancora giorno, però lui ha detto di pesca, disse per scrivanti per Natale, vedo, gli morì una nonna, gli morì adesso mi sono venuto a cadere, gli morì allora poi all'uso, cioè non vi crediate nessuno, ti ho trovato cazzate che ti dia, va bene dai, io ti lascio perché mi stavo chiamando a mangiare, ci sentiamo magari domani. Ciao, buona cena, buon tutto, ci ascoltiamo le prossime. Ehi, avrai, chi si giove i bulbi, chi si giove i bulbi, ma poi vengono sgamati. Vabbè, ciao fra, grazie anche a te della compagnia, dai, anch'io sto chiudendo, vado a portare il cane e poi ceniamo. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.